Dialog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Ho una fanciullezza agreste, pregna di ricordi di presenze mostruose. C'era sempre un contadino che tornava dalla campagna e raccontava di aver visto una serpe gigantesca. Ci fu un periodo che partivano tutte le domeniche battute di cacciatori su una macchia sopra casa mia, perché c'era il famoso serpente di Lacugnano, dicevano. Doveva essere una sorta di mostro di Loch Ness improvvisamente errante attraverso le pinete delle colline umbre. Leggo spesso e sento dire di pesci siluro mostruosi, abissali, pescati in laghetti di pesca sportiva, di sirene, non si sa come, viste o raccolte o assemblate, ne parla anche Malaparte nella pelle di una terribile colazione fatta per i liberatori americani e per compiacerli portare una sirena arrostita, lasciando il dubbio se fosse una bambina tagliata a metà accoppiata a un pesce o realmente qualcosa di fantasioso e di epico. Le leggende metropolitane sono una fonte inesauribile di mostre, a cominciare dalla più antica, la più conosciuta, degli alligatori che camminerebbero per le fogne delle grandi città, perché ci fu un periodo in cui i piccoli alligatori erano degli animali da salotto, una volta cresciuti venivano buttati nel gabinetto e poi crescono e fanno colonie di coccodrilli nelle fogne. Lo stesso vale per le piccole tartarughine, buttate anche loro nel gabinetto e fanno colonie di tartarughe, diventano mostri terrificanti. Poi c'è tutto il filone fantastico che oggi fa parte. Scusate, io ogni tanto faccio delle cose strane perché c'è una moquette in questo studio alla quale comincio a sospettare che io sia allergico. Come entro qua dentro provo, ho dei problemi di respirazione, quindi ogni tanto mi viene questo problema qua. Ma poi passerà, spero che passerà, mi prenderò qualcosa per combattere anche questa sorta di malessere. Dicevo, esistono poi dei mostri fantastici che hanno anche una loro valenza letteraria, che oggi sono molto presenti nell'immaginario giovanile, adolescenziale, ma anche adulto, che sono i licantropi, i vampiri, i divoratori di uomini. Il lupo mannaro era una fattispecie molto frequentata nelle nostre campagne, bastava che ci fosse una persona che alzasse un po' il gomito, fosse un po' rubizzo in faccia, che magari avesse notti insonnio, tornasse a casa non in perfette condizioni di luce e veniva additato per essere lupo mannaro. Cominciavano subito le leggende, bisognava pungicarlo con uno spillo e far uscire tre gocce di sangue, e la prova era che i cavalli avevano le criniere intrecciate, quindi c'era una presenza diabolica e via dicendo. Beh, pare che questo antico e inesauribile retaggio di mostri presenti nel nostro quotidiano abbia ancora e tuttora una vasta possibilità di essere espresso. Proprio qualche giorno fa un noto foglio di Free Press romana, quei giornali che si danno alle metropolitane, ha cominciato a cavalcare in maniera potente l'idea che potesse esistere uno Yeti o un Bigfoot, come dice lo scrittore Ammanniti, che è di quelle parti, che si aggirasse per il parco di Villa Ada a Roma. E qui c'è qualcosa di molto strano. Ci sono alberi completamente con la corteccia tolta, segni di graffi, ma ad altezze elevate anche per un cane o una volpe. Qui ci sono dei buchi molto grossi e profondi, qui ci sta un grosso mucchio di peli, ancora qua tutti i peli, che non so di cosa siano. Per giorni e giorni abbiamo letto, ma con grande apprensione, grande divertimento, di questi graffi ad altezze inimmaginabili sugli alberi di Villa Ada, che è un bel parco nel centro di Roma, importantissimo. C'era la dimora della famiglia Savoia, lì fu arrestato Mussolini, ci sono un'infinità di leggende, ci sono cave di pozzolana, ci sono rifugi antiaerei della casa Savoia, ci sono camminamenti sotterranei, catacombe, quindi ci sono oggi abitate da senza dimora, ma ci sono leggende formidabili. E ultimamente le persone che vanno con il cagnolino al guinzaglio, con il bambino in carrozzella o a correre o abbracciarsi gli innamorati in quel parco cominciano ad avere il terrore che possa esistere uno Yeti. Cosa c'entra l'abominevole uomo delle nevi, creatura fantastica himalayana, in un parco assolato di Roma? Non si sa bene, però il fatto che la leggenda comincia a prendere corpo. In quale mostro di questi che ho citato voi credete? In quale siete mai incorsi nel corso della vostra vita? In quale voi avete avuto leggendario racconto da parte di persone che conoscete, avete incontrato? In quel laghetto esiste un pesce straordinario, un tentacolare mostro pontaghermirvi, in quel bosco esiste un'altra creatura fantastica. Mi dicono che anche nei castelli romani giri la voce di una sorta di lupo mannaro, uomo peloso gigantesco che si aggira. Ecco, oggi vorrei raccogliere tutto questo retaggio leggendario perché è interessante. Se mostri qualcuno li vede, evidentemente da qualche parte questi mostri esistono, anche se non è proprio sempre una dimensione concreta e reale. Gli avvistamenti relativi all'uomo falena ebbero una sorta di prologo nel 1966, nell'estate, in quanto due persone di Clendenin, una cittadina del West Virginia, affermarono di aver visto una sorta di oggetto di forma umanoide con ali enormi sul retro volare nei cieli della città. Nel novembre dello stesso anno si ebbe, come dire, una esplosione di avvistamenti di una creatura misteriosa. Il più celebre di questi avvistamenti è di sicuro quello che si ebbe il 14 novembre del 66 da parte di quattro ragazzi del West Virginia, della città di Point Pleasant, che nel corso di una gita in auto all'interno di una zona che nella Seconda Guerra Mondiale era utilizzata per il deposito di esplosivi, videro mentre stavano guidando una figura alta circa 2 metri con enormi ali e con occhi rossi luminosissimi e terrificanti, e ovviamente ne rimasero terrorizzati e fuggirono in auto e raggiunsero addirittura una velocità di... Qua parliamo di uomo falena, un mostro che non rientra perlomeno nelle tipologie che ho sempre di cui ho sempre sentito dire o ascoltato. Un uomo volante, esiste un filone horror dedicato appunto a questa sorta di alieno volante cattivissimo, con unghie e rapaci, che mangia, squarta, uccide, divora. Ecco, esiste nella tipologia dei mostri conosciuti e trattati in letteratura e subletteratura qualcosa che si assomigli a qualche vostra esperienza diretta? Ne avete sentito parlare? Ne leggo molto, ogni tanto i giornali, in carenza di stimoli efficaci e concreti, danno corpo a queste voci. Noi trattammo poco tempo fa la storia degli alieni alti 4 metri e che venivano confusi probabilmente con degli struzzi in una regione del nord d'Italia, e lì ci furono importanti testimonianze rispetto a questo avvistamento. Ma sui mostri, gli antichi, vecchi, cari mostri, quelli che fanno paura, quelli che sono nascosti nell'ombra, quelli di cui si vedono soltanto i confini indefiniti, e noi diamo corpo alimentando questa immagine fantasmatica con tutte le nostre paure, con tutte le nostre esperienze, con tutto quello che di negativo abbiamo conosciuto negli esseri umani. 800240024. Un'importante e profonda e attendibile testimonianza viene naturalmente da uno dei più seri programmi scientifici della nostra televisione. Tra i 2 metri e 2,70 metri, una folta pelliccia che avvolge il suo corpo, peso circa 200 kg, con impronte dei piedi che vanno dai 40 ai 46 centimetri. Stiamo parlando del Bigfoot. È alto, scuro e non ha sicuramente vita facile. È stato avvistato ovunque, dall'Australia all'Himalaya. Ma chi è realmente questa creatura selvaggia e misteriosa che chiamiamo Bigfoot o Sasquatch? Per fortuna esiste Voyager con il professor Giacobbo che ci dà supporto scientifico a quelle che sono soltanto credenze, superstizioni. Il Bigfoot esiste perché lo dice Giacobbo. Raffaele, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Quale mostro lei ha visto, conosciuto, di cui ha sentito parlare? Allora, visto no, però nella buona sua tradizione del racconto, insomma, già ancora negli anni Ottanta a Pistoia, nella mia città, si parlava del Gobbo Puccini. Ah, Gobbo Puccini, cos'è? Il Gobbo Puccini era il fantasma Gobbo, perché in realtà era Gobbo, questo magnate di Pistoia, Niccolò Puccini, e praticamente ancora negli anni Ottanta, in questa villa di Scornio, che è una villa, insomma, ai bordi di Pistoia, sembra le donne del quartiere Belvedere, si chiamava, che vedessero ancora i Gobbo Puccini a girarsi nel parco la notte, una cosa impensata quasi. E questa è però una via di mezzo fra la presenza fantasmatica e il mostro. Ma ha fatto pensare lei a qualche ubriaco, perché in effetti sì. se uno ci riflette, io non ci avevo pensato a questo, se uno ci riflette forse fra gli ubriachi, che una volta erano ben più pittoreschi, anche simpatici forse delle moltitudini di ubriachi che ci sono giovanissime oggi, forse era un ubriaco che o faceva finta o in realtà somigliava al Gobbo, perché questo Gobbo aveva delle caratteristiche, Niccolò Puccini, conosciute tramite quadri, tramite... è una storia che a Pistoia conoscono in tanti. Insomma, ecco, da quanto non se n'è più sentito parlare? Da una ventina d'anni? Non so. Io parlo degli anni Ottanta perché abitavo nel quartiere lì fino agli anni... fine anni 80, anni 90, insomma, e quindi non ne ho poi più sentito parlare, ma in realtà mi sa che anche queste vecchine non esistono. Eh sì, da quando più o meno hanno messo in commercio il vino nei contenitori di cartone, più facilmente trasportabile, quindi il probabile Gobbo Puccini non aveva più bisogno di portare bottiglie in giro per il parco, ma si approvvigionava probabilmente a casa sua di un bel cartone di vino da poco prezzo e non ha più dato problemi alle signore della sua città. Giacomo, buongiorno. Che altri mostri lei... ma si vedono regolarmente sui giornali locali, e non solo sui giornali locali, anche i giornali di pesca, che nei laghetti, nei fiumi, soprattutto sul Po, ci sono dei siluri che oltrepassano i 120... È il famoso pesce siluro, di cui tanto si parla. Di cui tanto si parla, ma io mi ricordo da piccolo che ho visto su una rivista di pesca, molto molto piccolo, che c'era un siluro pescato nel Danubio di 400 kg. Sì, c'è sempre un alone leggendario, un po' come l'uccello Padulo, no, tutti ne parlano, ma nessuno poi realmente lo incontra. Quindi i mostri, i siluri sono da 150 kg, si trovano regolarmente nella zona di Cremona. Beh, allora non è un mostro, il mostro ha una sua unicità, un suo aspetto terrifico che lo rende unico. Ma il mostro, un pesce di 150 kg pescato in un fiume come il Po, è comunque un mostro. Beh, è brutto a vedere, sì, non è un granché. Brutto da vedere, quindi un mostro. Nell'immaginifico comune è un mostro anche lui, insomma. Va bene, abbiamo dato una classificazione anche al pesce siluro. 800240024. Sforzatevi, vorrei qualcosa di nuovo, di originale, non i soliti mostri di cui ormai nessuno più ha paura. È uno dei misteri che da sempre appassionano i biologi marini. La vita dell'Architeuthis rex, meglio conosciuto come calamaro gigante. Ora si potrà sapere molto di più sul comportamento dell'invertebrato più grande del mondo, le cui dimensioni possono raggiungere i 18 metri di lunghezza. Il professor Tsunemi Kubodera del Museo Nazionale della Scienza di Tokyo è infatti riuscito a catturare per la prima volta le immagini di un calamaro gigante vivente lungo 8 metri, immortalato mentre attaccava una preda a 900 metri di profondità nell'Oceano Pacifico settentrionale. Ci sono molte ipotesi sul modo in cui i calamari giganti usano i loro lunghi tentacoli. Stavolta abbiamo il calamaro gigante, il kraken, il piovrone enorme, che è il condimento di ogni film di pirati, di ogni film fantastico, il nostro incubo dell'immaginario, il mostro per eccellenza è tentacolare, perché è imprevedibile, perché ci arriva da tutte le parti, perché è qualcosa di proteico e multiforme, che può diventare qualcosa che non immaginiamo, anzi più il mostro è mutevole, mutante, e più si adatta ai nostri incubi più profondi. Pare che nelle fosse profonde come la fosse Marianne possano esistere mostri del genere, ma anche lo Yeti è stato visto dal grande scalatore Messner, quindi evidentemente qualcosa c'è che si concretizza nel nostro immaginario comune, collettivo, che poi dà corpo ad alcuni mostri che hanno delle categorie abbastanza comuni. Ad ogni latitudine, in ogni popolazione ci sono mostri che si somigliano. Nino? Sì, pronto? Parli dei mostri, anche lei, che ha visto, di cui ha sentito parlare. Sì, buongiorno, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Ti telefono da Padova, è un qualcosa che ha sempre terrorizzato noi, io ho 29 anni, ma ne parlano grandi, piccoli, anziani e meno. Ancora se ci pensa le vengono i brividi, immagino. Diciamo che i brividi vengono quando si ascoltano queste cose. Lo so. e sì, più che viverle sulla pelle, perché non sono un tipo così coraggioso e non ho fatto come invece altri miei amici. Cosa hanno fatto i suoi amici? Cosa hanno fatto i suoi amici? Niente, la specola, che immagino lei conosca benissimo in quanto osservatorio astronomico del grandissimo Galilei, è rinomata qui a Padova per essere... Non frequentai con molta assiduità, però sto qui attendendo da lei delucidazioni sulla specola di Padova. Ho visto il museo delle stampelle sotto la statua di Sant'Antonio, lì, quello sì l'ho visto, ma non altro. Fantastico, però la specola, guardi Nicoletti, vale assolutamente la pena, glielo posso garantire. Speculeremo. Scusi? Speculeremo, presto. Assolutamente. Niente, è un ricettacolo, più che una leggenda, è un qualcosa che alcuni hanno realmente sentito, poi suggestione o meno, questo non glielo so dire, ripeto, io non sono... così coraggioso, è un ricettacolo di streghe, sin dal Medioevo fino ai nostri giorni. Tuttora. C'è gente che giura di aver sentito, di aver come, a Città del visto. Santo ci sono le streghe, com'è possibile? Questo è un ottimo paradosso, assolutamente, però è così, le dico, ho voluto portare la mia testimonianza perché... Sì, ma mi dia qualcosa di più concreto, perché finora mi ha detto soltanto... Qualcosa di più concreto, guardi, i guardiani della zona da sempre sentono urla la notte, sentono rumori stranissimi, quello che solitamente è l'archetipo di tutto il... È il classico urlo della strega che si accoppia con il caprone, è logico, durante il sabba, essendo spinoso e ghiacciato, è logico che non dia grande fremito di piacere. Esatto, quelle urla c'è chi giura di averle sentite e non solo nella sua testa, c'è chi giura di aver visto degli esseri muoversi e volare, contorcersi, urlando e sghignazzando, e quindi lei capisce che qui a Padova... Questo è e tutti gli ascoltatori di ancora Paolo, però non ci riusciamo ad astrarre da una sorta di contesto teologico, la strega come forza del male è qualcosa che appartiene a un altro filone. Quello di cui vogliamo parlare oggi è il vero mostro, un mostro neutro, un mostro molto laico, è lì perché, non so, viene da un'altra dimensione, da un'altra epoca. Siamo partiti allo Yeti di Villada, che è un residuo di umanità non è ancora evoluta, è un incontro e un connubio fra uomo e animale, è una specie di umanità che non ha avuto modo poi di espandersi, vive soltanto in certi luoghi selvaggi e segreti. Io su questo ho tenuto finora in ascolto paziente, per cui ringrazio una persona che questo problema lo ha studiato. Loredana Toso, buongiorno. Buongiorno. È autrice di Mostre e leggende, un viaggio fra la criptozoologia e le leggende metropolitane, edizioni Bupen, che è un libro che tratta proprio della materia di cui vogliamo oggi noi attingere al vostro ricordo, al vostro immaginario. Fra tutti i mostri di cui ha sentito intanto dare le prime testimonianze Loredana Toso, quali appartengono proprio al filone che lei ha studiato e analizzato? Beh, sono l'unico che si può parlare è l'uomo falena, che è una leggenda metropolitana, perché in realtà era un gufo e gli occhi rossi erano dovuti ai riflessi... Dovrebbe abbassare un po' la radio, mi scusi, abbassare un pochino la radio se ce l'ha accesa. Sì. Eccomi. Ok, sì. Ci sono. Dicevo, l'uomo falena, che è l'unico che può essere classificato come un crittide, perché sono le segnalazioni che le persone vedevano questo mostro, che dicevano che era grande, gigante, con gli occhi rossi, ma in realtà era una specie di gufo, che gli occhi rossi erano fatti da riflessi di luci. Ecco, quando si parla di criptozoologia, esattamente, di quale branca della scienza si sta trattando? Entriamo in un ambito realmente scientifico, non è la giacobata. Lei, penso che trovi dei riferimenti in animali che comunque hanno una loro reale e concreta esistenza, che poi vengono esaltati e visti come mostri. Praticamente è lo studio degli animali insoliti o rari. Ad esempio, una volta il bradipo era considerato un crittide terrestre, perché appunto non si conosceva. O attualmente è un animale comune. L'altro giorno era il giorno della lentezza, il bradipo era il re della giornata. Tutti sanno cosa sia un bradipo. Sì, attualmente sì. Se lo chiedeva nel 1800, gli diceva che era un animale mostruoso. Ecco, altri esempi c'è qualche animale associabile al Bigfoot o allo Yeti, che mi sembra uno degli avvistamenti più frequenti? Una grande scimmia, ad esempio in Nepal, chiamato Alamasti, ed è una grande scimmia, o altri lo considerano come un uomo di Neanderthal, che secondo alcuni è stato avvistato anche nel 1946. Che però non esiste una prova scientifica, esiste qualche foto, sì, un po', c'è un filmato. Sono trovati dei peli, ma il DNA ha stabilito che sono peli umani. Poi sono state trovate delle impronte, di cui ho anche un calco originale preso in Nepal. A lei ce l'ha a casa sua, un calco del piedone. Sì. E quanto è grande? Sono un numero 40, un 45 più o Vabbè, meno. Il professor Rocchetti, più o meno, che di fronte a me ha lo stesso numero di piede, non è mostruoso, sì, è un po' peloso. Fermiamoci solo un istante, perché è molto interessante, Loredana Toso. Diamo la linea all'informazione della borsa, poi riprendiamo con le sue descrizioni dei mostri e con i reperti che lei conserva gelosamente. Melog, la realtà condivisa. Padre Vaca, un sacerdote, nella seconda metà del secolo scorso ha trovato dei corpi di giganti, ossa che in realtà sono ossa umane di dimensioni più grandi rispetto al normale. Io ho personalmente visto e ho maneggiato un dente, un molare umano, sicuramente umano, perché l'abbiamo messo al vaglio di esperti dentisti e anatomopatologi, i quali hanno effettivamente confermato che la forma è quella di un molare umano, ma le dimensioni sono assolutamente spropositate, per cui questo ci fa pensare a un gigante, poteva appartenere solo a un gigante. Uomini giganti, mostri marini, mostri terrestri. Questa mattina stiamo cercando di dare fondo a tutto l'immaginario creatore di mostri che ancora persiste nelle nostre città, nelle nostre campagne. Ancora bello pensare qualcuno veda mostri nella loro singolarità, nella loro forte e drammatico portato epico e arcaico. I mostri sono qualcosa di antico, finché ci sono i mostri abbiamo possibilità ancora di avere una storia, di avere un ricordo, che ci sia stata una trasmissione anche delle paure che oggi vengono artificialmente costruite attraverso immaginari che non ci appartengono, che forse non sono mai appartenuti a nessun umano. Sentiamo l'ascoltatore Giuseppe. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono un involontario creatore di mostri. Vi racconto, una trentina d'anni fa amavo fare vacanze itineranti lungo il mare, pinne, maschera, muta, mi tiravo dietro una sorta di galleggiante in cui mettevo dentro le cose indispensabili, e in Puglia, lungo la costa, facevo tratti di una decina di chilometri al giorno, era un modo diverso di fare vacanze, insomma. In uno di questi itinerari, di questi tratti, ero mi pare verso Castro, non riuscii a calcolare bene la tappa, era troppo lunga, e mi fermai molto prima. Lungo la costa c'erano dei rettangoli di roccia che poi mi dissero essere tombe messapiche. Mi fermai. Beh, lì anche hanno anche molto costruito, molto vicino al mare da quelle parti. Sì, quindi... sì, ma io 30 anni fa il Salento era molto diverso da come ora. Sì, era un posto assolutamente sconosciuto ai più. Comunque c'erano queste tombe messapiche che partono da Ignazia nel Fasanese e vanno fino a Otranto praticamente, e decisi di dormire all'interno di una di queste tombe perché era l'unico punto dove c'era della sabbia, del resto erano dei rettangoli. Quindi si adagiò dentro la tomba? Sì, erano dei rettangoli di roccia ormai, cioè non è che ci fosse, c'era la forma del coperchio, tutti i pugliesi che vanno al mare sanno come sono fatti. Vabbè, lei si mise a fare... Ci mettono l'ombrellone di giorno, non è certo che ci sia... Io tirai fuori il mio sacco a pelo color crema per risparmiare sulle pile, perché risparmiavo su tutto perché dovevo tirarmelo certo dietro. Beh, con le pile. Uno che va a dormire nelle tombe, chiaro che è una vita grande. Certo. Tirai fuori e escogitai da che era in casa da chissà quanto tempo, quella specie di bicchierino dove si mette l'olio e si accende con lo stoppino il lumino dei morti e mi misi a leggere, perché la sera leggevo normalmente, insomma. Certo. E così, cioè, lei ha acceso il lumino dei morti, si è messo dentro la tomba, ha avvolto nel pelo, leggeva, e poi ho spento, quando mi sono stancato, mi sono messo a dormire. Tranquillamente. Dopo un paio d'ore sento rumoreggiare due ragazzi che amoreggiavano, erano due ragazzi che amoreggiavano a 10-15 metri lontano da me. Anche loro andavano nella tomba, beh, è una passione. No, a me amoreggiavano lì vicino allo scoglio. Mi sentiva tremare gli scogli da questa eruenza? No, niente di tutto questo. Sospiri. Tranquillo, riprendo, prima o poi finiranno, andranno via, finiscono di amoreggiare. Dopo un paio d'ore di chiacchiericcio tra quello che si dice tra ragazzi, insomma, no? La ripresina. Riprendono ad amoreggiare. Cioè, la ripresina. A questo punto, no? Dice, io domani mattina presto devo riprendere il mio itinerario, qui non riesco a dormire con questi rumori così, no? Conosciamo i rumori, insomma, che si fanno in quei momenti. Sì, adesso vediamo un po' di fare la sintesi, perché se no... Sì, riaccendo il lumino per uscire fuori e pregare ad allontanarsi un attimo. Solo in quel momento, guardando il loro viso, mi rendo conto di quel che avevo fatto. Cosa? Sbiancati di terrore, scappano via vestiti. Al mattino presto, verso le 5, all'albeggiare, vedo parte dei loro vestiti sugli scogli. Questi avevano visto il mostro. Che era lei? Due o tre anni dopo, torno agli stessi posti, col bar, eccetera, faccio colazione, eccetera, e mi raccontano che esiste... Esistono dei mostri, il fantasma del messapo che dalle tombe messapiche. Certo, e non ho smentito la cosa. E lei sarà così. Da allora lei fu di smentire questa cosa. Lei fu il mostro, il guardone messapo peloso che riesce dalla tomba per infastidire i giovani. È un tema di un film dell'orrore. Loredana Toso, che ricordo autrice di Mostre e Leggende, un viaggio tra criptozoologia e leggende metropolitane, edizioni Bupen. Esiste anche la possibilità di equivoco, naturalmente, il Signore ce l'ha raccontato senza il dono felice della sintesi, però abbiamo capito che esiste anche l'equivoco. Ma in realtà, quali sono gli animali abissali, arcaici, sconosciuti, che ancora oggi potrebbero essere scambiati per mostri? Oddio, il Nessie, il tipico, la superstar, potrebbe essere scambiato come mostro, anche se molto probabilmente era un semplicissimo scherzo. Molti mi scrivono del chupacabras, che è un altro mostro di cui si parla. Cosa è quello? Una specie di lupo o cane allupato? È una specie di lupo che in pratica è un può essere scambiato anche tramite un lupo mannaro, è stato chiamato, perché è un insieme tra lupo mannaro e un lupo che è del Sud America, che in teoria dovrebbe succhiare il sangue alle pecore e alle mucche. Molto si vede di più nell'ambito ufologico, perché dicono che sia un essere alieno venuto qua per qualche strano motivo, per succhiare proprio il sangue alle capre. Ma la criptozoologa, esiste un animale che va lì e si mangia le capre? Sì, penso qualsiasi predatore. Che mangiano, sì, che succhiano solo il sangue e lasciano la carcassa lì intatta, non credo. Eh no, sì, non hanno la cannuccia gli animali, in effetti sì. Sentiamo Pierangelo, buongiorno. Pierangelo? Eccolo Pierangelo, avvicini al telefono. Sono... Eccolo. Sì, pronto? Buongiorno. Eccolo Pierangelo, lei è anche veterinario, quindi ha una cognizione tecnico-scientifica del mostro. Sì, io sono un veterinario buiatra, mi occupo solo di bovini da latte principalmente. E quindi solo minotauri, cos'altro potrebbe aver visto di mostro? No, ci sono stati molti fenomeni di vitelli giovani che sono nati ma con 5 zampe, 2 teste, un occhio solo. Lei ha visto il vitello bicefalo? Sì. Vabbè, interessante, ma sopravvivono oppure muoiono? No, generalmente non hanno sopravvivenza se non di poche ore. Anche dei globicefali generalmente hanno una sopravvivenza molto limitata. Cos'è il globocefalo? È una malformazione della scatola cranica, per cui si accumula liquido all'interno del cervello, invece che essere di cervello c'è una deformazione completamente della scatola cranica. E cosa viene fuori? Cos'è un vitello con la testa come? Un testone? È molto grande, tipo un melone o un'anguria. Nascono vivi ma poi muoiono in poche ore. Ma voi cosa ne fate poi? Li mettete sotto formalina, li studiate o li buttate via? No, generalmente vengono fotografati e poi eliminate, insomma, cioè non hanno possibilità di sopravvivenza. Io non sono collegato all'università, ho provato a volte a cercare di mandare all'università, ma non sono molto interessato a questo settore, quindi. Vabbè, chiaro. Però il vitello due teste ha il suo interesse, ha il suo fascino. Certo. Generalmente sono delle malformazioni da teratomi, cioè della trascrizione genetica, per cui nascono con queste gravi malformazioni. Qualcuno è sopravvissuto con 5 zampe, c'era una bovina adulta che aveva una zampa atrofica sulla schiena, aveva le sue 4 zampe normali, la sua mammella normale, la sua testa normale, però aveva questa zampa in appendice sulla schiena che è campata poi fino alla fine dei suoi giorni. E cosa ne facevano questa zampa in più? La usavano strumentalmente? No, niente, era assolutamente lì come un'appendice appesa che non dava nessun problema. Beh, questo è una creatura mostruosa, uno che la vede, una mucca, sì, con una, sì, zappa, sì, in più. Un sacco di fotografie su queste cose qua. Beh, è interessante, quindi affondiamo comunque l'immaginario su creature che in realtà per malformazioni genetiche, quelli che una volta chiamavano gli scherzi della natura, in realtà hanno caratteristiche atipiche e quindi potrebbero ingenerare l'idea, il cane a 7 zampe, oppure il cerbero, oppure il minotauro, in realtà probabilmente alla base c'erano quello che lei sta descrivendo. Pino, buongiorno, chi ha visto lei? Buongiorno, sì. Da Arezzo. No, io più che visto volevo parlare di una leggenda che è sempre circolata fin da quando ero bambino, e anche del mio nonno che me lo raccontava. A nord del Casentino c'è una vallata che si chiama Casentino, appunto, a nord di Arezzo. C'è una vallata che è il Casentino, probabilmente, sì, lei la conosce. Ma senta, ci fermiamo solo un istante a dare l'informazione del traffico. Lei raccolga le idee e poi ci racconta di questo mostro del Casentino che mi sembra molto interessante. Fra un istante però. Melog, la realtà condivisa. Fanno gli scherzi, mi pubblicano su Facebook una foto in prospettiva con la puffetta sopra il tetto di una casa dicendo che è stata avvistata in un parco di Roma. Vabbè, andiamo avanti. Ci eravamo interrotti con l'ascoltatore Pino che ci raccontava di una sorta, sì, di leggenda. Una leggenda che circola, che è sempre circolata nella zona dell'Alto Casentino, l'alta valle dell'Archiano, diciamo, che è un affluente dell'Arno, dove si parla di un mostro avvistato da più volte da persone che vanno, non so, in cerca di funghi. E com'è fatto questo mostro? Questo mostro tutti lo descrivono come fosse tipo una specie di coccodrillo che però viaggia con due zampe. Coccodrillo che cammina, sì. Drago, coccodrillo, cioè un lucertolone, ma alto da un metro e mezzo, qualcosa di... E la caratteristica è che dice che quando qualcuno lo vede rimane come paralizzato, non riesce a muoversi dal punto in cui è. Vorrei vedere. Però nessuno ha mai avuto dei danni, dei danneggiamenti. Comunque più persone hanno detto, ne ha parlato un po' anche la stampa locale. Vabbè, certo, figuriamoci se può fare a meno di parlarne la stampa locale in un caso del genere. Quindi lei dice che a parte Capitan Uncino nessuno ha mai avuto problemi da questo coccodrillone aggressivo. Esatto. È interessante, interessante. Claudio, buongiorno Claudio. Buongiorno. Cosa deve aggiungere a quello che abbiamo detto? Io volevo dire che il Chupacabra, sulla trasmissione del grande Giacobbo mitico che io guardo sempre, perché ogni tanto nessuno può farne a meno, come si fa a vivere nel nostro tempo? È indispensabile, perché sennò la sera è un disastro. Niente, lui diceva che ha fatto vedere questa signora che ne aveva trovato uno, l'aveva imbalsamato e hanno fatto tutti gli esami per il DNA, per questo e per quell'altro, perché dicevano che era tipo un coyote e poi invece alla fine viene fuori che era un chupacabra. Voyager ha scoperto che è una razza diversa, è un altro. Quindi Giacobbo ha avuto la prova tangibile che esiste il chupacabra. Giacobbo è il numero uno, è un grande. E allora esiste, se lo dice Giacobbo, sì, è chiaro, esiste. Che esiste. O era lui o se no esiste. Comunque esiste, dal momento che l'hai fatto vedere Giacobbo, il chupacabra è una realtà. Loredana Toso, vediamo di fare un punto, perché il coccodrillo che cammina con i piedi, sì, il chupacabra, quali, ripeto la domanda di prima, quali possono essere degli animali che in realtà assomiglino a queste fattispecie? Vedo che ancora ogni tanto esce fuori la leggenda del drago imbalsamato, poi in realtà sì, anche quello si è scoperto che è una bufala, però esistono ancora, diciamo, dei sauroidi che se li vediamo possiamo pensare a creature fantastiche. Sì, ci sono 208 nuove specie catalogate nell'ultimo mese di rettili nuovi, che molta gente non ha mai visto, appunto perché nessuno va a cercare proprio la specie, che ce ne sono 100 esemplari in tutto il mondo. Se io ad esempio vedo un animale strano, posso pensare che sia proprio un crittide. Beh, diciamo che oggi poi con la fluidificazione delle comunicazioni, molte persone fanno viaggi esotici o importano animali esotici. Ci sono pitoni sparsi per le città, perché uno si compra il pitone, poi o se lo dimentica o non sa chi lasciarlo quando va in vacanza, o lo lascia nel terrazzino, e diventano animali metropolitani a tutti gli effetti. Sentiamo Luigi. Luigi, cosa ha visto lei? Sì, salve, buongiorno, sono Luigi da Lucca. Io volevo raccontare un'esperienza che mi è capitata la scorsa estate con i miei figli in Versilia, e praticamente a pochi metri dalla riva, nella trasparenza di un'onda che stava venendo contro di noi, è apparso la sagoma di un pesce serra, che è uno di questi pesci che ormai arrivano dalle zone tropicali. Beh, però nel Mediterraneo è abbastanza comune il pesce serra. Esatto, però ecco, questa bocca spalancata... Che ha i denti come uno squalo, però. Esatto. Questa bocca spalancata nell'onda che veniva verso di noi sembrava proprio che ci voleva mangiare tutti, insomma è stata un'esperienza veramente... E aveva la bocca come uno squalo, perché ha i denti a triangolino affilato. Esatto, come quello di uno squalo. Esatto. Poi la caratteristica è che è un pesce che è molto vorace, si diverte, sembra la leggenda dice che si diverte a ammazzare i pesci solo per il divertimento di farlo, non per la fame o... Ecco, un animale molto vorace. Ecco, lei come ha reagito a questo punto? Sentito... Ma siamo rimasti un attimino interdetti, quello ormai se ci voleva mangiare ci mangiava. Vi guardava con l'aria feroce il pesce serra. Sì, e poi è arrivata l'onda in prossimità dei bimbi e di me, si è dissolto nell'acqua, insomma, è sparito. È scomparso, non se n'è avuta più traccia. Beh, questo, Loredana Tosi, invece nel campo dei pesci, c'è il regista Cameron che si è appena calato nella fossa delle Marianne, a quasi 11.000 metri, per andare laddove si pensa che esistano ancora delle creature talmente lontane dalla nostra percezione, proprio perché rimaste lì da sempre. Nell'ambito dei pesci esistono pesci che in realtà potrebbero dare l'idea di essere mostri se noi li trovassimo quando facciamo il bagno? Beh sì, ci sono dei pesci bellissimi, ma allo stesso tempo anche bruttissimi, che potrebbero essere scambiati come mostri. Addirittura c'era un ascoltatore, poi adesso è scomparso, mi parlava delle sirene. Ma la sirena, le sirene. Ha visto una sirena? Sì, ma sì, però sa, piacerebbe conoscerlo. Sì, ma il tasso alcolico la mattina spesso è molto elevato anche nelle persone che ci ascoltano, quindi e questo è piuttosto. Ecco, invece l'aspetto delle città invase da mostri, concorde con me che molto potrebbe derivare da questa folle passione per gli animali esotici, poi vengono abbandonati in giro. Ecco, quale potrebbe essere un animale? Ci sono anche degli allevatori di iguana o qualcosa del genere, non uso il termine più esatto. Gli allevatori di iguana allevano persino i bradipi, che è una specie protetta. Ci sono gli allevatori Le sfugge il mostro in questo momento. Sì, mi sfugge. Ma come sono fatti? Li descriva. Sono piccoli, sono grandi quanto un dito. Sì. Sono piccoli, sono degli scoiattolini. Non mi ricordo il nome scientifico. Sì, però abbiamo capito. Degli scoiattolini piccolissimi, ma ferocissimi e capaci di divorare una persona in pochi istanti. Non so se è vero, ma ho aggiunto pathos a questa trasmissione.